fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E signore e signori, siamo qui con due esponenti del bar Roma di Taverna La Bergamasca, giusto? Taverno là, perché esatto, è là. Esatto, se, là. Se era qua, era Taverno qua, però è Taverno là. Là su Bergamasca. Ok, il vostro ruolo nel bar Roma, ditemelo. Anzi, partiamo dal nome, come ti chiami? Davide. Davide? Natale. Natale? Sempre? Tutto l'anno? Purtroppo. Perché non cambia, bello, bello, perché è appena passata Natale. Pasqua. Lui sei sempre Natale tutto l'anno? Sempre Natale. Perfetto. E qual è il tuo ruolo nel bar Roma? Coadiuvante familiare. Cos'è coadiuvante? Figlio del capo. Figlio del capo, ah ok. Ok, figlio del boss, quindi quello che non fa niente sta lì, gira, chiacchiera e va d'estate in ciabatte anche, giusto? Infradito, bello sciallola così, spaparanzato. Mi piace questo ruolo fondamentale nel bar Roma. Mentre tu? Io supporto morale del coadiuvante. Supporto morale del coadiuvante. È un impegno gestire un bar, mi sembra. Ma il vostro è il classico bar Roma? Cioè classico. Perché il bar Roma c'è più o meno in ogni città, no? Il bar Roma, bar centrale, bar sporso. Più o meno dei nomi famosi, no? Sempre. Quindi classici, bar classici. Quindi il tuo è il classico bar classico, giusto? No, perché gli amici che ci stanno ascoltando magari sono in zona, vogliono andare a bar Roma, ma adesso è... chiuso. Si è chiuso, sì. Sei qua? Siamo qua. È chiuso. Perché è un bar tipico quello... sul lago, sì. Descrivimelo, che magari così classico, qualcuno... gelati, bibite, panini, clave. Come? Le clave? Cosa sono le clave? Siamo i... Cosa sono le clave? Non lo sa neanche il figlio del boss. Tavernicoli. No. Cos'è? È un... nomignolo. È un nomignolo... quasi. Ah, proprio, no, no, guarda che si arrabbia, guarda che si arrabbia, guarda che lui è... tu sei coadiuvante? Siamo tutti familiari. Ah, proprio una cosa, una grande sì, famiglia? Sì, una grande famiglia. Ma stasera siete venuti a festeggiare cosa? Il 20° anniversario. Il 20° anniversario del bar Roma? Sì, in gestione, yes. Sempre voi, sempre... Dal 99. Tu eri piccolo? 9 anni, sì. Avevi 9 anni. Tu te lo ricordi? Io no, lo ricordo quando aveva circa 20 anni in più. Circa? Quindi, 19 cioè, anni. L'hai conosciuto 10 anni dopo praticamente. 20 anni dopo. Però praticamente tutto il paese di Tavernola è lì, viene lì al bar Roma, cioè vi conoscete tutti? Sì, sì, paesino sì. Piccolo, ci si conosce. E quindi? Sono 2300 persone. E quindi sono... paesello, sì, beh. Che poi è quello praticamente, c'è cioè uno fa Sarnico, quei paesi lì, poi va su, esatto, e inizia la sponda bergamasca, e sale. Ma dove, c'è mica nella strada una pietra che sembra che cade? No. È Tavernola. Allora lì è Tavernola, giusto? No, io scherzo perché vengo dalla Bassa Bresciana. Ah, lui viene tutte le volte dalla Bassa Bresciana? Lui è mio cognato, non l'ha detto, ma è mio cognato. Ah, attenzione! Salta gli altarini. Ha sposato tua sorella ha sposato, no, giusto? Conviviamo. Ah, come vedi. Però con tua sorella, eh? Yes. Sì. Ah, ok, no. Magari c'era qualcosa di alternativo, no? Che storia. Quindi domani siete aperti? Sì, certo. E come fai? Ce la fai? Sì. Sì, mandi la sorella, no? No, no. Apre il capo. Ma è qua il capo stasera? Certo. Adesso è andata a riposare, no? Salutiamo il capo, dai. Siri. Ciao Siri. Siri. Ciao boss. Si chiama Siri? Siri, no. Non c'entra niente con l'Apple, lui, no? No, non c'entra niente. Quindi Siri è il boss. Tu come ti chiami, ripetimelo? Natale. Ah, già, è vero che me lo dimentico. Natale. E Davide. Ok. Quindi volete salutare qualcuno, qualche Siri, cliente che magari non è venuto stasera? Locca. Locatelli che ha bidonato il buon Davide. Davide se l'è segnata, Davide se l'è segnata. Quindi il Locca ha bidonato. No, aveva un altro impegno. Aveva un altro impegno. Davide, lo vedo. Si vede anche dalla webcam che è sofferente. Fammi la faccia più disperata. Fai che ti manca il Locca. Mamma, è disperato. Distrutto. Perché comunque il Locca può andare a vederla, la replica di questa cosa. Quindi puoi trasmettere a Locca il tuo sentimento. Vabbè, però posso sempre cantare con Natale. Vuoi cantare? Volete cantare? Dopo di là. Ah, di là, in area YouTube. Vabbè, magari volete fare due cosine. Dopo così. Te parliamo con Stefano. Ah, come parlate con Stefano Cantato? Va bene, ecco. Quella ragazza vi punta ancora, eh? Lei è mia sorella. Ah, è la sorella! La sorella! Caramba, che sorpresa! vedevo un certo fan, un po' fan. Che storia. E penso che non ci sta, non ci può sentire in questo momento, no, purtroppo. Non ci sente. Cioè, e questa è quella che vi punta ancora? Che è mia nipote. È sua nipote? Mia nipote. Che la, è la tua nipote? Sì. Ma è tutta in famiglia stasera, praticamente. E la tua dove è andata? È in giro, in giro. Dato che tu parli, hai detto prendo una boccata d'aria un attimo. Che mi distrago. Fate qualcosa di bello al Bar Roma da sapere, che magari uno non sa, non so, organizzate qualche festa, qualche evento. No, in programma, qualcosa. Adesso ci sarà la finale di Coppa Italia dell'Atalanta contro la Lazio. Ok. Rigorosamente atalantino. Atalantino, ecco, yes. Quindi attenti, vi date l'accesso ai non atalantini per quella serata, solo per quella serata, giusto? Perché sarà un momento di... Un momento catartico. Catartico. Lì non lavorerà, immagino, perché... Vado a Roma, forse. Addirittura? Sì, sì. La finale, non so quando la rivedrò. Lascia il cognato lavorare, lascialo. No, io zero calcio. Ah, zero, niente. Quindi va bene così. Quindi eventi oltre la partita, basta. No, ci sta. È da lago, relax. Ok, quindi. Quindi invitiamo tutti a venire al Bar Roma di Taverna La Bergamasca, si trova proprio vicino al lago? Lungo lago, ok. Sì. C'è Natale che vi aspetta tutto l'anno, ok? Esatto. Perché così. Anche se è appena passata Pasqua. Anche se è appena passata Pasqua, c'è Natale sempre lì allerta, in infradito, anche a dicembre, giusto? E poi abbiamo Davide. Anche tu. Che fa vedere, fa niente, ci dà la carica. Davide ci dà la carica, ok? Esatto. Ed è coadiuvante di Natale. Ok, è stato bellissimo. Salutiamo la sorella che si chiama. Silvia. Come? Silvia. Siri, il capo. Siri, e la nipote Veronica. E tutti i clienti del Bar Roma. Esatto. Ciao a tutti. Ciao da Natale, ciao, e Davide. Ciao. Buona serata. Ciao.